7:30 minuti primi. Questa è la colazione targata pane, burro e rock and roll. Vi trasciniamo per le orecchie fino alle 9 di stamane. Buongiorno Valeria, patente 745 Stefano. Contenti del concerto del maestro Frick a Rapallo. Suona sempre a Rapallo Frick. Patentata 862, buongiorno anche a te. Ho tanto sonno, non ho voglia di andare a scuola. Meno male che ci siete voi. Però non è giusto dare la patente senza test. Basta con questa storia, Che poi in Liguria non le abbiamo ancora date. Oh. E poi saranno meno. Ma dai, oh, ma guarda te. Gruppo d'ascolto tassisti. Con la carogna perché le città sono invase da manifesti di un'altra radio. Ma non fatevi venire la carogna, che ve frega voi? Anche se posso confessarvi che stiamo lavorando a una nuova rubrica che più o meno suonerà così: medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Lo ricordate, Matley? Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Vabbè, ci lavoriamo su e poi partiremo con questa nuova rubrica. Sull'invidia. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Che stile, che classe. Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Buongiorno a voi radioascoltatori e radioascoltatrice frazionate, mezzoristi, stiamo iniziando a chiamarvi, anche se vedo dalle testimonianze, per esempio qualcuno oggi mi scriveva: noi siamo tre quarto d'oristi, ne ascoltano tre quarti d'ora di pane, burro e rock and roll. Insomma, qualsiasi categoria è la vostra, ciao, ecco che è meglio, anche di lavoro. Salutiamo Alessia che mi sta facendo colazione con pane, burro e frittelle fatte da lei. Che invidia, mi piacerebbe. Abbiamo una richiesta per il carro di Celle Rigure. Siamo, lo dico subito, sì, poi così lo ripeto anche nel corso della trasmissione. Abbiamo bisogno del fischio del treno. Qualcuno là fuori può aiutarci per il fischio del treno? No, perché la macchina del fumo l'abbiamo già trovata. Motore a scoppio forse abbiamo rinunciato, ma ci servirebbe il fischio del treno. Basterebbe, pensavo, qualche camionista che ha quelle trombe bitonali strane. Però potremmo fare anche un fischio rock per la locomotiva di Rock FM, no? Il fischio magari è un po' troppo classico. Vabbè, ho lanciato l'appello, se potete aiutarci 335 100 7777. Riprendo il filo del discorso. Sappiamo che spesso e volentieri voi che sentite questa parte di trasmissione vi perdete poi la seconda. Beh, venerdì vi siete persi una Kashmir dei Led Zeppelin col Kazoo, che vi riproporremo, non oggi, presumo nella giornata di domani. E vi siete persi anche l'anteprima di una nuova radionovela. Abbiamo mandato il promo nella puntata di venerdì, all'inizio della seconda ora, e faccio venire l'acquolina in bocca anche a voi della prima ora, presentandovi ufficialmente quello che sarà la prima radionovela di Pane, Burro e Rock and Roll. Vai Spadino! Prossimamente, in esclusiva per Rock FM, una radionovela che ha appassionato milioni di radioascoltatori in tutto il mondo. La tranquillità di una piccola cittadina dispersa nelle lande desolate del Messico viene messa a dura prova dalla tirannia di un cattivissimo dittatore. Smettetela di ascoltare il rock! È musica da ignoranti cappelloni! Tagliatevi i capelli! Un solo uomo è in grado di porre fine a questi soprusi e arriva in sella ad una rombante motocicletta. Zorrock! Io odio Zorro! Lo detesto! Con tutte le mie forze! Non perdetevi le emozionanti avventure di Zorrock! Io odio rock! Quasi quasi preferisco spararmi uno standard jazz! Prossimamente in esclusiva su Rock FM. Yeah. 28 di gennaio, maestro Antoni, le ricorda qualcosa? 28 di gennaio, DJ Ariele, è arrivato l'arrotino. No. L'arrotino. Pane, burro, rock and roll, dice nulla, si riprenda. Pane, burro, rock and roll, è arrivato. No, quella è un'altra cosa. L'almanacco. La redazione no, spinge per il compleanno del giorno, quasi ci siamo, compleanni del giorno. I nati quest'oggi. Inizio io, 1928, nasceva il grande Eugenio Monti, mitico bobbista italiano. Massimo rispetto per tutte le confessioni religiose. No. Anche i bobbisti vanno rispettati. I bobbisti? Sì, i bobbisti vanno rispettati, sono una religione come tante altre, insomma. Il bobbista è lo sportivo, quello che va sul bob. Ah, non è la famosa religione alla quale appartiene anche Marley? Dica cazzata a quest'ora della giornata. Proseguiamo col 28 di gennaio del 1945. Laddove successe che? Nasceva Robert Byatt, batterista e cantante dei Soft Machine. Soft Machine, la macchina soffice, da un racconto, o meglio dal titolo di un racconto, se non ricordo male, del grande Burroughs. Credo ricordi proprio bene. Un anno dopo di lei, invece. Anzi, 55? Esatto, 1955, Nicolas Sarkozy, presidente francese. L'attuale recentissimo marito, invidiatissimo. Marito non lo direi, fidanzatino. Fidanzatino. Della nostra Carla Bruni. Sì, invidiatissimo. A quando? Sbiato lui. Caro Frick, anche lei un bel fidanzamento che faccia parlare un po' di pane, burro e rock and roll? Sì, stavo pensando di addocchiare la Venere Nera. Ah, Naomi Campbell? Sì, naturalmente. Sì, so che non è una ragazza facile, ha un po' di problemi, anche un caratterino complicato. Però per noi potrebbe farlo. Esatto, grazie, però per pane, burro e rock and roll potrei provarci. Chiuderei con il 28 gennaio del 1981, quando nasceva il buon Elijah Wood, attore statunitense. Mi ricordi almeno un film da lui recitato. Lo ricorderà certamente nel Signore degli Anelli, lui era Frodo. Ah, un cacciatore. Il cacciatore? No, era Frodo. Cacciatore senza. Era Frodo. Frodo? Ah, no. Il cacciatore omosessuale, adesso ho capito. Frodo, va bene. Se mi lasci il di signore cancello... dei Tarzanelli. No, il Signore degli Anelli. Colpo di scena. Se mi lasci di cancello, i Sin City. Grazie, maestro, è stato prezioso. Evviva, un augurio a tutti i nati il 28 di gennaio. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Starting over. Miss John Lennon, Just Like Starting Over. Pane, burro, rock and roll, la vostra colazione mattutina con l'Ariele Freak Spadino, la redazione, Isaac Rizzi e ovviamente gli amici. No ragazzi, oggi è lunedì, vero? Un lunedì veramente difficile. Dicevo, gli amici e le amiche di Pane, burro, rock and roll, che ci aiutiamo, insomma, ci si dà una mano. Domenica questa c'è il raduno surrealista. Se siete interessati, dovete venire vestiti o da cowboy o da indiani, ok? Sapete quanto noi si prenda tutto terribilmente in maniera seria a Pane, burro e rock and roll. E settimana scorsa abbiamo chiesto aiuto, abbiamo scovato parecchi cowboy all'ascolto e anche qualche indiano, quindi da qui a domenica vedremo di dare un po' di segnalazioni per fare il cowboy o l'indiano nella maniera migliore possibile. Dovrei avere in linea Giorgio, pronto? Sì, pronto. Buona giornata, Giorgio da Milano. Sì, esatto. Giorgio mi è esperto sul reparto cowboy. Beh sì, dai, diciamo di sì. L'indiano non l'hai mai fatto? No, che io ricordi no. Però spesso e volentieri fai il cowboy. Sì, esatto. Svegliamo l'arcano, perché tutto ciò? Ma semplicemente ballo country. Ma il ballo country. Quindi sarai un appassionato anche delle nostre trasmissioni serali a cura del buon Maurizio Faulisi. Il ballerino country mi è vestito cowboy. Sì, decisamente. Allora Giorgio, dacci due dritte di quelle cose. Cioè, io fai conto, per adesso stavo pensando un cappello, un cinturone e la pistola finta. Sì, beh, quello di sì, base. Può andare. Di base. Sì. Ma diciamo che un abbigliamento in jeans può andare benissimo. Ecco. Pantalone e anche giacchetto e anche camicia, sì. A sto punto, sì. Sì, una camicia tipo, presente quelle di Tagliaboschi? Quelle a quadroni? Esatto, quelle lì possono andare anche bene. Oppure quelle un po' che avevi nell'armadio quando eri grunge. Io ce ne ho un paio. Esatto. E niente, diciamo che l'abbigliamento più o meno è quello lì. Sicuramente avendo una fibbia anche di quelle belle pataccose. Fibbiozza gigante fa sempre la sua porca figura. Esatto, decisamente sì. Ovviamente cappello e stivali. Eccolo lì. Io non ce li ho gli stivali, Giorgio. Cioè, se mi vesto da cowboy e tengo le All-Star, dici che non funziona. Beh, dai, è un cowboy un po' più moderno, però ci può stare. Sì, è tipo il cowboy a riposo che ha appena finito di montare il cavallo e rilassa i suoi piedi. Anche se un vero cowboy non li rilasserà mai i suoi piedi. Ma guarda, io ti dirò, ho preso un paio di stivali l'anno scorso e ti giuro, quando li metto è come aver sulle ciabatte. Ecco, lo sapevo, mannaggia. Lo sapevo che per voi veri cowboy metropolitani era così. Senti, invece qualche frangetta anche? Sì, sì, ci stanno anche quelle, magari con la pelle tipo pelle di daino. Mannaggia, Giorgio, c'è da dire che se tu ti liberassi, sei di Milano, no? Sì, sì. Se tu ti liberassi per il tre, potresti venire a organizzare i balli, però. Cioè che andiamo dietro il carro e facciamo quelle robe lì tutti insieme, no? Ma guarda, ci sto pensando, è un po' lontanuccio, però l'idea c'è, adesso devo vedere un po' se riesco a organizzare. Dai, ti ricordo che c'è un taxi a disposizione, se non ricordo male Tino aveva dato a disposizione 4 posti, uno se lo deve essere già preso a Isaac Rizzi, che è la nostra redazione, però poi, insomma, se porti qualche cappello mi sa che ti dà pure il passaggio. Giorgio, grazie per l'aiuto. Figurati, grazie a te. Vediamo, se organizziamo per domenica i balli li fai tu, ok? Sì, va bene, posso fare un saluto? Devi! Alla Lori e alla mia ragazza, la Vale. Un saluto a tutte quante, ciao caro! Ciao. No, che si sappia, non è che uno va là a fare il cowboy così, prendendo le cose in autogrill, no? È un raduno surreale, deve essere una roba seria. Gli sms, se vengo da scuo va bene? Livo 66, ovviamente sì. Anche i maschi mi si possono vestire da scuola, la dico subito. E qui a Pane, burro, rock and roll siamo aperti. Pronto, buongiorno, la chiamo da Rock FM, la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Non mi interessa, grazie e buongiorno. Buongiorno a lei, la saluto, arrivederla. Pane, burro e rock and roll, pane, burro e rock and roll, mazza che figata sto programma, ragazzi!